È una forma di protesta che è diventato quasi un cavallo di battaglia di XR Bologna, una forma di protesta molto sacrificante sia per chi la fa e sia per chi la riceve, perché mette di fronte a una scelta: rispondere e quindi esporsi sulle richieste, oppure lasciare che la persona che dice lo sciopero della fame deperisca e patisca quindi sotto gli occhi di tutti le angherie del non mangiare. Partiremo il 27 settembre, come le realtà le altre volte saremo presenti in piazza con un presidio tutti i giorni dalle 17 alle 20, perché crediamo che la piazza sia il luogo giusto per portare avanti le nostre richieste, che sono delle richieste in realtà che XR Extinction Rebellion porta avanti, ma sono richieste di tutte e tutti, perché noi ci opponiamo a questo tipo di agire della regione Emilia-Romagna, che da un lato sottolinea soprattutto dopo l'alluvione l'importanza di interventi per contrastare i cambiamenti climatici per adattarsi al nuovo clima, e dall'altro però continua ad insistere con il consumo di suolo. Sappiamo tutti della notizia dell'ulteriore deroga alla legge, alla tanto decantata 24/2017. Quello che chiediamo nello specifico è di abbassare gli obiettivi della neutralità climatica presente nel patto clima lavoro dal 2050 al 2030, perché il 2050 è troppo tardi, questo ce lo suggerisce la comunità scientifica e gli stessi organismi internazionali, e poi di indire un'assemblea regionale sul clima per elaborare tutti insieme, quindi la cittadinanza e i responsabili politici, le misure da adottare per raggiungere questi obiettivi, così come è stato fatto a Bologna, con un maggiore coinvolgimento della cittadinanza e soprattutto con una comunicazione massiva. Voi sottolineate appunto alcune scelte che non avete condiviso, a parte il consumo di suolo c'è anche la questione del rigassificatore di Ravenna, ma ritenete, come dire, inefficaci anche gli strumenti di cui la regione si è dotata, come il patto per il lavoro e per il clima? Assolutamente sì, contestiamo il fatto di mandare avanti dei provvedimenti spot che sono totalmente sconnessi con quelli che sono le esigenze di cambiamento, quindi non c'è una visione sistemica nell'andare avanti, però contestiamo fortemente anche il mancato coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini, e questo a nostro modo di vedere il senso della giustizia climatica. Sono i cittadini e le cittadine che subiranno, o come purtroppo si è visto negli eventi tragici e catastrofici dell'alluvione, le conseguenze. Sono le cittadine e i cittadini che vengono lasciati soli in questo caso, che sono doppiamente vittime perché non partecipano all'elaborazione dei danni che li condannano a morte, e vittime perché sono i primi a subire questi danni. E ripeto l'invito che facciamo a tutte come Extinction Rebellion, anche con un solo giorno di digiuno, scrivendoci alla nostra pagina, dimostrare solidarietà, perché questa è la battaglia di tutte e tutti. Questo lo ripetiamo sempre a gran voce: noi siamo cittadine e cittadini, siamo scioccati dal fatto che la politica, nonostante i cambiamenti climatici ormai sono sotto gli occhi di tutti, temporeggia, gigioneggia e continua il solito business as usual, non solo per quanto riguarda i provvedimenti ma anche e soprattutto per il modus operandi. Abbiamo tutti sotto gli occhi la querelle del commissario straordinario, mentre ancora c'erano le vittime calde, mentre ancora c'erano persone fuori dalle case che non avevano risposte, e a oggi, a 4 mesi dagli eventi disastrosi, ancora la situazione non è assolutamente risolta. Questo è qualcosa che deve assolutamente cambiare, perché in futuro purtroppo saranno molto più frequenti questi eventi catastrofici, e l'Italia e il Mediterraneo purtroppo è un hotspot dei cambiamenti climatici. Ripeto, invito tutte le persone ad unirsi a questo sciopero, anche solo con un digiuno, o a passare per portare solidarietà ad Emiliano, che sarà la persona che porterà avanti questo sciopero della fame. Ci vediamo in piazza dalle 17 alle 20 ogni giorno a partire dal 27 settembre, in Piazza Maggiore, lato Palazzo d'Accursio.